La prima volta che ho sentito di te dovevi intervenire al telefono da Gaza prima di un nostro concerto a Brindisi. Io non sapevo chi fossi, pensavo fossi un vecchio compagno. Poi ho visto le tue foto, i tuoi collegamenti ed ho capito subito che eri uno di noi. Frischezze e tatuaggi. Parlavi di bombe e di morti, tra le bombe, in mezzo ai morti, riuscendo a farlo con leggerezza, da una connessione internet un po' a dove, con la corrente che un po' andava e un po' veniva. Avevi quel tono, un tono leggero come canzonatorio, come se la morte non potesse nemmeno sfiorarti, in netto contrasto con la sceneggiatura lugubre dei fanatici pro-Israele di casa nostra, ciechi, sordi, cattivi, con la bava alla bocca, ignoranti e più di tutto ipocriti e assassini. Ed ora sono qua che ti guardo, tu che con la morte veramente fino all'ultimo dei tuoi giorni ti sei confrontato, senza tante sceneggiate, sottovoce, defilato, coi piedi nell'acqua che te la ridi godendo degli schizzi e del vento che ti scompiglia i capelli, e un po' sorrido e un po' piango, così come ci hai insegnato tu. Resto umano, ci sto provando. Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti a una stessa famiglia, che è la famiglia umana. Tutti. Tutti. A una stessa famiglia, che è la famiglia umana. Che tipo di pace, democrazia viene esportata tramite quegli stessi elicotteri Apache? La pace del fosforo bianco, delle cluster bomb, delle centinaia di vittime civili. Siamo vivi, ma siamo messi molto male. Vivi, ma siamo messi molto male. C'è una resistenza armata, da queste parti non è stata molto efficace, proprio per mancanza di armi. Piazza. Cecchini dappertutto, che stavano qualsiasi cosa si muova. Il massacro non è a danno di Hamas, ma è a danno della popolazione civile.